se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mai la parola intercettazioni è stata presente nel nostro immaginario come in questi giorni. Lo è per un motivo oggettivo, al centro di una grande discussione il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Però questa mattina, visto che ci sono ampi spazi, non perché voglia sgusciare, ampi spazi di discussione anche dell'aspetto politico, vorrei andare oltre quello che è il dibattito sul disegno di legge, ma riportare una problematica discussa a livello globale e generale sulla propria esperienza individuale. Se noi, ammesso che non siamo giornalisti, non siamo uomini politici, non siamo imprenditori, non siamo cardinali, non siamo personaggi legati alla malavita organizzata, non siamo persone che hanno loschi traffici, non siamo persone amici degli amici degli amici degli amici, abbiamo comunque la percezione che qualcuno possa seguire, tracciare, ascoltare, registrare, sovrapporre ciò che noi diciamo quando pensiamo di avere soltanto un interlocutore a disposizione. Noi ogni giorno usiamo un'infinità di strumenti facilmente tracciabili e rintracciabili. Tutti sappiamo che un telefono cellulare è un'arma meravigliosa per scardinare le resistenze, per scardinare le pudicizie, per raggiungere velocemente altre persone, per avere l'impressione che qualcuno ci stia vicino, qualcuno ci pensi, ci immagini, ci segnali la sua presenza. Ma tutti sappiamo altresì che un telefono cellulare è uno strumento pieno di insidie. Se cercate uno strumento incredibilmente potente, in grado di non destare alcun tipo di sospetto, utilizzate i nostri telefoni spia, che diventeranno il vostro occhio indiscreto, senza alcun limite di distanza. Senza alcun limite di distanza. Il nostro cellulare spia dispone di una telecamera rotante e può essere chiamato sia da un PC che da un qualsiasi altro cellulare UMTS per avviare la trasmissione automatica dell'audio e del video catturati. L'aspetto è quello di un moderno cellulare, ma all'interno si nasconde un potente strumento di controllo. Io non vorrei aprire qui la valutazione delle cifre. Siamo 7,5 milioni di intercettati, ha detto il Presidente del Consiglio. Altri dicono sono cifre errate, sbagliate, ma secondo me siamo molti di più di qualsiasi cifra ponderabile. Per realtà qualsiasi essere umano che ha una sua interfaccia emotiva, reale, sensibile e professionale e con un oggetto di tecnologia di comunicazione è in realtà un potenziale intercettato, anzi è un effettivo intercettato, perché ci stiamo oggi dibattendo in un dibattito, scusatemi la profonda cacofonia, che ci pone di fronte alla nostra schizofrenia. L'opinione pubblica in generale, anche ciò che di coscienza individuale attacchiamo al pensiero altrui e collettivo, ci porta ad indignarci di fronte al fatto che qualcuno possa sentire ciò che noi vogliamo far sentire soltanto a un numero ristretto di persone. Altresì sorge parallelamente a questa nostra indignazione una fiorentissima industria di costruzione di oggetti semplicissimi per intercettare. Non basta il semplice telefono, che in sé può registrare qualsiasi telefonato. Ognuno di noi ormai con un cellulare di ultima generazione può registrare la telefonata di un'altra persona. Quindi ognuno di noi, quando parla al telefono con la moglie, la fidanzata, l'amica, il collega, l'amante, il nostro spacciatore più fidato, comunque sa che qualcosa della sua voce, di quella telefonata, potrebbe rimanere imprigionato in una memoria digitale, ma non soltanto riferito ai telefoni cellulari. Allora presentiamo un localizzatore, il Finlock, dei più straordinari e dei più piccoli al mondo. Questo localizzatore è in real time, cioè che localizza in tempo reale, registra i percorsi, in più ha un microfono esterno e interno, poi ha 4 numeri prestabiliti per chiamare, quindi anche un telefonino a tutti gli effetti, e ha un tasto SOS per qualsiasi evenienza. Ciò che prima apparteneva soltanto ad alcune categorie che professionalmente hanno fare uso di strumenti di intercettazione, oggi fa parte della tecnologia consumer. Ognuno può attrezzarsi, può attrezzare casa propria, la propria automobile, il proprio luogo di lavoro come una centrale di spionaggio. Cosa significa questo? 800240024. Come vi dibattete anche voi tra l'angoscioso dilemma nell'aver paura di essere spiati e avere un desiderio insopprimibile di poter spiare tutto ciò che ci sta attorno? Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di un nuovo interessante prodotto Investigatù, la SIM Card Spy, un lettore di SIM card USB. Grazie al software in dotazione potrete immediatamente vedere e salvare gli ultimi 20 SMS cancellati o qualsiasi altra informazione che credevate perduta. Strumento insidiosissimo, alla portata di tutti, il riverginamento quotidiano che ognuno fa al proprio telefono cellulare non è più sufficiente. Comunque da qualche parte il dato digitale rimane annidato come se fosse una sorta di tumore latente, e sappiamo che con sistemi abbastanza semplici, senza bisogno di ricorrere anche a questa sorta di spy sim che viene venduta e pubblicizzata da un canale televisivo satellitare, ognuno può risalire comunque a ciò che è rimasto in memoria latente di un telefono cellulare, ma di cui il proprietario ha voluto liberarsi. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Andrea Rossetti è professore di informatica giuridica all'Università Milano Bicocca. Dal tuo punto di vista, Andrea, come si esce da questa sorta di banale quotidiana schizofrenia, dal desiderio di far parte di coloro che vorrebbero tutelare la propria privatezza e il grande esercito dei lussuriosi dell'intercettazione altrui? Direi che proprio non se ne esce, penso che il problema sia proprio questo, no? Siamo un po' tutti curiosi di quello che fanno i nostri vicini o i nostri parenti, ma contemporaneamente vorremmo difendere la nostra privacy, i fatti nostri in qualche maniera, soprattutto appunto agli sguardi indiscreti di coloro che ci stanno accanto. Semplicemente dobbiamo renderci conto che è sempre più facile essere intercettati, è sempre più difficile nascondersi, e essere nascosto in realtà si può, ma per farlo bisogna attuare una serie di pratiche, bisogna utilizzare una serie di strumenti che tutto sommato sono semplici da usare, anche se molto spesso le persone non li usano. Io ho voluto citare alcuni esempi che sembrano paradossali, ma ti giuro, li vendono come vendevano gli occhiali a raggi X dell'Intrepido 20 anni fa, tutti lo sanno. Ma anche in operazioni molto più semplicemente, banalmente quotidiane. Vogliamo ricordare quali sono le operazioni pratiche per cui ognuno, ogni volta che accende un computer, lascia una traccia di se stesso? Semplicemente, appunto, non è affatto vero che ciò che si fa in rete è sempre anonimo, perché nel momento in cui io mi connetto alla rete con un qualunque apparecchio, a questo apparecchio viene assegnato un numero che si chiama numero IP, che è univoco, cioè in quel momento unicamente in tutto il mondo quell'apparecchio ha quel numero. Di conseguenza tutto quello che io faccio può essere ricondotto quantomeno all'apparecchio che probabilmente è in mio possesso, e quindi io posso essere reso responsabile di quello che sto facendo. Questo avviene anche se uso un nickname, talvolta alcuni studenti mi scrivono appunto mail mascherando il nickname o cercando di mascherare il nome. Sì, ma il computer è tracciabile. Il computer è tracciabile, perché in realtà sul mio blog, ovviamente, quando qualcuno mi mette un commento, una delle prime informazioni che ho è l'indirizzo IP, e quindi queste persone sono tutte almeno potenzialmente rintracciabili. Naturalmente a determinate condizioni, insomma, perché per rintracciare effettivamente la persona bisogna ovviamente ricorrere all'attività giudiziaria, che fa una specie di indagine che richiede all'internet service provider poi appunto la connessione, una corrispondenza tra indirizzo IP e persona intestataria dell'abbonamento, della connessione. Ecco, ma esiste un punto di caduta in cui bisognerà necessariamente fare i conti col fatto che più diventiamo dei felici utilizzatori di tecnologie per mettersi in contatto con il mondo, per lavorare velocemente, piacevolmente, per avere il mondo a disposizione in mano, più dobbiamo cominciare a rivedere le garanzie della nostra privatezza. Credo che proprio sia questo il problema, la sfida in qualche modo agli ultimi anni è proprio questa. Non si vede più bene quale sia il limite, il confine tra pubblico e privato, perché insomma fino a pochi anni fa il confine poteva essere un po' banalmente tracciato dalle mura della mia casa, no? Dentro la mia abitazione nessuno può metterci naso, nessuno può controllare quello che faccio, ma però i computer noi li usiamo dentro casa e quello che facciamo è lì dentro, insomma. Ma proprio da un punto di vista giuridico si sta lavorando per ridefinire questo, perché mi sembra che abbiamo ancora un diritto organizzato sul sacro diritto romano, sul il diritto privato, il diritto pubblico, la proprietà, le mura, come dici te, è una realtà che ormai ha trapassato questi confini concreti, ma di gran lunga. Ma allora, il diritto è, direi per definizione, per sua stessa natura, in ritardo rispetto alle nuovi tipi di relazioni che si instaurano all'interno di una società, perché il diritto arriva un po' dopo a regolamentarli quando ci sono. Un passo in avanti è stato fatto, perché non dimentichiamo che la legge sulla privacy nasce in Italia nella seconda metà degli anni 90, quindi una legge recentissima nata proprio per tutelare, perché si stavano diffondendo queste tecnologie che diventavano sempre più pervasive. L'idea di privacy che si ha è effettivamente un'idea in qualche modo vecchia, un'idea connessa a una concezione probabilmente appunto legata a modi di vita che non sono più quelli attuali. La legge poi noi la chiamiamo un po' impropriamente legge sulla privacy, no? Perché in realtà quello che tutela questa legge è il trattamento dei dati personali. La privacy poi è una cosa diversa, un po' come si vede in questi giorni, insomma, no? Ecco, considera una cosa, noi abbiamo fatto sentire degli spot che sono spot di apparecchi e tecnologie che vengono pubblicizzati in televisione. Se poi uno va a vedere nello specifico, la pubblicità non è mai così diretta, non dice mai sono per intercettare, dice questo spy sim serve per ricordarvi i vostri ultimi SMS, certo. Ma la legge proibisce l'uso mirato di questi strumenti, certo. Sono strumenti illegali, sono assolutamente illegali. No, alcuni dei miei colleghi fanno gli avvocati mi dicono che sempre più spesso in caso di divorzio arriva il coniuge che vuole divorziare con delle intercettazioni fatte in casa e sperando di poterle addurre come prova dell'infedeltà del prima coniuge. Prima di andare dall'avvocato si comincia a registrare. Sì, sì, certo, in realtà quelle non sono prove ammissibili, no? Anzi, addirittura chi fa una cosa del genere commette un reato, perché questa è la verità, perché comunque non ha niente a che fare con la privacy questo, non riguarda appunto con le intercettazioni, ma le intercettazioni sono cose che sono permesse da una legge e sono specificamente regolamentate da una legge. Noi privati non possiamo banalmente intercettare in maniera legale, ovviamente. Abbiamo al telefono Mario da Genova che ci dà una sua lettura analogica di una sorta di protospionaggio probabilmente non perfettamente consentito e lecito che faceva lui negli anni 50. Mario, buongiorno. Buongiorno. Sì, naturalmente per noi era un divertimento. Io mi trovavo a Napoli al comando in capo come centralinista e noi ragazzi, noi giovani marinai, intervenivamo in qualsiasi telefonata. Cioè voi facevate i centralinisti, no? E mettevate, infilavate i jack nei buchettini per diciamo accavallare le telefonate, però potevate ascoltare l'inizio della telefonata almeno. Sì, sì, avevamo c'erano ora i relay, mi sembra che si chiamassero, perché ora è passato tanti anni, sono vecchio e non ricordo tanti particolari, però c'era la centrale anche. Scusi, ricordiamolo alle persone più avvantaggiate da un punto di vista anagrafico. Al tempo, quando si faceva una telefonata interurbana, venivamo interrotti dalla centralinista, diceva cosa fa, continua o interrompe? Esatto, quindi esatto. Ci ascoltava per forza. Sì, esatto, questo. Ma poi si accendevano delle luci, i relè si mettevano in moto e noi potevamo intervenire ad ascoltare, facevamo anche scherzi a quel punto. Potevamo anche collegare persone ignare una con l'altra, a loro insaputa, a loro bisognose di collegarsi, ecco. Potevamo quindi Andrea Ossetti, il nostro ascoltatore, ci facendo capire che in realtà da quando l'umanità ha messo le mani sulle tecnologie che velocizzano, aumentano e mettono in relazione persone, ci ha sempre giocato sopra. Ma la prima regolamentazione che io ho trovato sull'intercettazione telefonica è americana del 1890, quando il telefono credo fosse stato inventato neanche da una decina d'anni, insomma, e fosse veramente poco diffuso. Nel momento in cui nasce il telefono, nasce il problema delle intercettazioni telefoniche. Questo è un dato di fatto. Nel momento in cui una nuova tecnologia ci mette in comunicazione, nasce il problema dell'intercettazione di qualcuno che ascolti questa, che possa intercettare i messaggi che ci scambiamo con questa nuova tecnologia. Diciamo che il vero salto è stata la telefonia mobile, perché con il telefono, certo, fisso ancora c'era un uso molto diverso. Il vero salto è stato il digitale, come sì, al solito, cioè la possibilità anche di registrare e di intercettare con maggiore facilità questi dati. Il salto è stato il digitale, non dimentichiamo che quando noi abbiamo un telefonino a cielo siamo localizzabili anche se non abbiamo un GPS nel raggio di 100 metri tramite insomma una serie di tecniche. Volevo questa mattina dare proprio informazioni tecniche, pratiche, dove essere una sorta di memento per i nostri ascoltatori che potranno chiamare all'800240024 per far capire meglio in realtà quale sia la nostra traccia lunga, la nostra ombra digitale. Quando facciamo delle banalissime operazioni abbiamo al telefono Stefano Zanero. Zanero, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ricercatore di ingegneria informatica al Politecnico di Milano, esperto in tracce digitali e informatiche. Ecco, ci dici, Stefano, al di là di quello che abbiamo già detto io con Rossetti, questa coda lunga, qualcuno la chiama l'ombra digitale, che inizia con la prima ecografia che ci fanno quando ancora siamo un piccolo feto e finisce con il nostro certificato di morte che viene messo nell'anagrafe del comune. Beh, è chiaro che al giorno d'oggi ognuno di noi lascia tutta una serie di tracce digitali dietro di sé, come stavate giustamente dicendo, ed è altrettanto chiaro che questo crea dei problemi di protezione dei dati dal punto di vista tecnico così come dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista tecnico il problema è fondamentalmente riassumibile in una cosa che è molto semplice, no? Poi si declina in tanti dilemmi tecnici più complicati, ma la cosa molto semplice è questa: sostanzialmente i nostri dati, le nostre impronte, come le chiamate, sono salvati, registrati in migliaia di sistemi diversi, nessuno dei quali o molto pochi dei quali sono sotto il nostro diretto controllo. Allora, noi una semplice mail che noi lasciamo, mandiamo a una persona, non so se si rendono conto i nostri ascoltatori in quante copie viene comunque prodotta e rimane, in quante macchine rimane la nostra email, la nostra quando è in partenza, in uscita, fra quelle che abbiamo mandato, quella che arriva, in quante copie rimane un'email. È inutile cancellarla e buttarla nel cestino o toglierla comunque dal nostro client di posta elettronica, quella rimane lì, rimarrà sempre. Ci sono dei piccoli sistemini, ma anche semplicemente alla portata di tutti, con algoritmi molto abbordabili. Se qualcuno prova una volta a fare una ricerca nel proprio hard disk e vede quello che rimane nel nostro hard disk, si spaventa, vengono i capelli bianchi, sei d'accordo? Assolutamente sì, ma la cosa che dicevi tu è molto importante, cioè non è soltanto il nostro hard disk, il mio cellulare, il mio portatile, ma sono tanti sistemi su cui noi non abbiamo nessun controllo, che conservano delle porzioncine di questi dati. Per esempio nel caso dell'email che facevi, a cui facevi riferimento tu, sicuramente ne rimane una copia per qualche periodo e poi recuperabile, diciamo, con i software a cui facevi riferimento, sul server della persona a cui l'abbiamo mandata, sul client della persona a cui l'abbiamo mandata. Rimangono tracce degli endpoint, quindi dei punti di partenza e di arrivo della comunicazione telematica, perché ci sono delle leggi che obbligano a registrarli senza i dati, diciamo il contenuto della mail, no? Come se fosse il tabulato di una conversazione telefonica, questi rimangono registrati presso i provider. E di questo, guarda, non c'è mai una percezione così precisa. Molti pensano che cancellare una mail o semplicemente chattare con una persona non lascia traccia. Tutto lascia traccia. Melog 2.0. Ciao a tutti, ancora una volta con voi per parlarvi di un nuovo meraviglioso prodotto, l'orologio microcamera. Questo meraviglioso prodotto è il primo registratore con telecamera digitale miniaturizzato, così piccolo da poter essere inserito in un normale orologio da polso. Ma vediamo come funziona. Per attivare la registrazione o fare foto digitali, bisogna prima di tutto premere il pulsante laterale per accendere la telecamera. Premendo il tasto centrale, la camera fa foto digitali ad alta risoluzione. 80024, 0024 sta cominciando, come vedete, sta continuando il nostro supermarket degli strumenti di intercettazione. Mi sembra ci sia un canale apposito proprio nel pacchetto di Sky in cui continuamente vengono pubblicizzati questi oggetti, che sono oggetti che possono essere dei gadget di puro divertimento, ma che in realtà, anche se non viene chiaramente, palesemente detto, sono strumenti di spionaggio, di intercettazione, che danno corpo alla necessità casalinga comunque di farsi fatti altrui, di prendersi prove che diano corpo ai propri sospetti. Vengono usati soprattutto, non tanto, anche in campo di spionaggio professionale industriale. Molte volte il campo più frequentato per queste tecnologie è quello dell'adulterio, dell'infedeltà, che, come diceva però Andrea Rossetti, professore di informatica giuridica della Bicocca di Milano poco fa, in realtà non costituiscono prova, quindi non si rappresenta. No, anzi costituiscono un reato, sono esattamente un reato, appunto perché le intercettazioni sono cose permesse a determinate condizioni che sono stabilite per legge. Peraltro la legge prevede esplicitamente che tutti i tipi di comunicazione che avvengono su un determinato, in un determinato stato, siano almeno potenzialmente intercettabili dalla polizia. Insomma, qui la legge vecchia non è molto chiara, però sembra una legge che escluda in qualche maniera la possibilità di comunicare in maniera appunto crittografata, tale per cui la polizia non possa, anche se intercetta la chiamata, comprendere ciò che viene detto. Questo è un po' il problema del nostro ascoltatore Massimo da Ferrara. Massimo, buongiorno. Salve, effettivamente, io sono dilaniato dal dubbio, sono una persona che normalmente riesce di primo acchito a prendere posizioni nelle varie questioni, però di fronte a questa tematica e all'attualissima discussione in Parlamento, io sono dilaniato dal dubbio perché non riesco assolutamente ad avere un'idea fissa. Sì, ma la capisco, guardi, è il problema, è affratellato con tutte le persone che hanno un minimo di raziocinio. Noi siamo oggi divisi infatti sul fatto che si sono allargati questi confini della nostra privatezza in maniera così veloce, così immediata e così invasiva che nemmeno noi ce ne siamo resi conto, non eravamo pronti. È una delle tracce dell'evoluzione immediata, spontanea e percepibile che abbiamo. Lei in particolare però a quale tecnologia si riferisce? Guardi, in pratica a tutte. Avevo una domanda da fare agli esperti. Siamo qua. E cioè, Skype è intercettabile o è scevro da questa da questo grande fratello, da questo grande orecchio che ci può ascoltare? E nella fattispecie, Skype da telefono a telefono, quindi non Skype direttamente dal... Non usando la video chat, ecco, usando il sistema telefonico, sì. Sentiamo Stefano Zanero, che è un ricercatore di ingegneria informatica del Politecnico di Milano, che di queste cose ne intende. Il fatto di Skype, ahimè, è un grosso dilemma per molti. Viene usato abitualmente, è un sistema che a volte sostituisce anche il telefono, ma ormai è uno strumento di lavoro molto utile. La videoconferenza si fa con Skype, permette di lavorare a distanza. Io ci ho scritto il libro insieme a Morigi usando Skype, quindi è normale. Però Zanero, il vero problema è che se l'algoritmo di Skype sia di dominio di altre persone, oltre quelli che l'hanno costruito, ce lo danno gratis. Ma allora, io farei innanzitutto un micro passo indietro, ricollegandomi a quello che diceva prima Rossetti, cioè il fatto che questo grande orecchio telefonico o telematico è già di per sé un'attività che si è fatta illegale, no? Quindi stiamo discutendo di intercettazioni potenziali e o abusive nella nostra vita quotidiana, che peraltro non c'entra più o meno niente con quello di cui si discute normalmente. Sì, però lo sai perché ne sto parlando, non c'entra proprio niente. Ma mentre c'è un grosso dibattito sull'aspetto pubblico, lecito, giuridico, motivato, circostanziato, di intercettare questo grande flusso ormai di passaggio, artigianalmente c'è un grande bricolage domestico per fare la stessa cosa. Questo è un dato che sociologicamente a me fa riflettere. Ok, perfetto. Allora, una volta che con il tuo ascoltatore noi siamo su questo tema, per rispondere direttamente alla domanda, perché non è che mi volevo sottrarre, ma era soltanto una premessa. Skype è un sistema che comunica con un formato cifrato, quindi non intercettabile da terzi in teoria. A meno che non abbiano il sistema di decriptarlo. Assolutamente. Che esiste. Il punto è questo qui, non è un sistema che sia stato pubblico, quindi noi non sappiamo come questo sistema funzioni. Per spiegare la differenza, ci sono molti sistemi di crittografia per le email, uno molto famoso, molto usato, è PGP, Pretty Good Privacy, che ha anche delle implementazioni open source, libere, GPG, che possono essere installate gratuitamente, di cui si conoscono i sorgenti, si sa tutto. Questi sistemi crittografici sono fatti in modo da non consentire a un terzo, un sorvegliante di qualche tipo, di avere accesso alle nostre comunicazioni, cioè sono fatti per preservare la riservatezza da una persona a un'altra. Di solito questa cosa tecnicamente si chiama end-to-end, da un punto all'altro. Sì, che il compagno di scrivania del collega a cui mando l'email, se questi non vuole, non possa leggerla, ecco. Assolutamente, esatto. E anche in realtà direbbe Schneier, no? Ci sono due tipi di crittografia, quella che impedisce al fratello minore di leggere, al mio fratello minore di leggere i miei contenuti, e quella che impedisce al Big Brother, no? Al grande fratello, come tradotto in italiano. Però scusami, ti interrompo un attimo, mi viene un dubbio. Andrea Rossetti, può esistere giuridicamente un sistema di comunicazione che le autorità, in caso di necessità, non possono intercettare? No, in teoria no. In molti stati occidentali ci sono leggi che prevedono proprio la potenziale intercettabilità di ogni comunicazione che avvenga sul territorio nazionale. Perché se esistesse tutta la malavita organizzata, userebbe solo quello e non avremmo più problemi. Sì, no, integrando un po' quello che sta dicendo Stefano, in realtà, il problema è che non si capisce se Skype abbia rilasciato oppure no il suo algoritmo di cifrazione ad alcune autorità giudiziarie. C'è stata una polemica l'anno scorso mi sembra, proprio in Germania, in cui la polizia chiedeva a Skype appunto la maniera di intercettare queste cose, la risposta poi non è mai stata, almeno io non ho mai visto pubblicata la risposta, cioè io non so se Skype abbia davvero dato. Ti faccio una domanda paradossale tedesca. Per far capire, metti caso che si capisse che i vertici della grande cupola della malavita mondiale usano Skype per parlare tra di loro, qualcuno potrebbe chiedere a chi ha costruito Skype, dammi i codici. Beh, chiaro. Allora, quindi... poi queste grandi corporation in realtà internazionali agiscono sempre con molto buon senso. Appunto, se si tratta di terrorismo o di crimini di questo genere, è chiaro che magari obtorto collo, però danno i dati, danno le informazioni. Quello che tendono a fare queste ditte è invece preservare la privacy del singolo, no? Insomma, non si può avere accesso ai dati del singolo, cioè il marito non può avere accesso ai dati della moglie, insomma, chiaro, ecco, per cose di queste piccolezze sì, però tutte le grandi ditte, tutte le grandi corporation, tutte le grandi società di questo genere, in realtà di fronte a problemi come il terrorismo, il traffico di droga, il traffico di bambini, in realtà si muovono e collaborano attivamente con la polizia. Quindi conviene che il principio fondamentale che dovrebbe ognuno mettersi in testa è che in realtà nulla è sicuro quando si comunica attraverso delle macchine o stai in luoghi in cui ci sono macchine di sorveglianza. Beh, qui Stefano Zanero poi è un esperto di queste cose, insomma, uno come Stefano Zanero è meglio averlo amico, perché nel momento in cui ti mette le mani su un computer in realtà sarebbe in grado di tirarsi fuori qualunque cosa anche molto imbarazzante. Sentiamo qualche ascoltatore. Alfredo da Bergamo, buongiorno. Allora, cosa è successo tanti anni fa? I primi telefonini lavoravano su una certa frequenza che era intercettabile con le radio ricevienti. Sì, bastava uno scanner che costava pochi soldi, lo vendevano. Esatto, ci abbiamo giocato tutti. Esatto, quindi succedeva che professionisti davano appuntamento alle amanti, naturalmente pensavano di non essere visti ed avevano attorniati a persone. Però vede che alla fine andiamo sempre lì. Alla fine il vero problema in realtà non è tanto i traffici di valuta all'estero, le illecite acquisizioni. Alla fine quello che veramente rode a tutti è che si intercetti la classica telefonata, ci vediamo quando ci vediamo, conciati così, mettiti cosà. Alla fine è quello. Cioè voi... il problema era che bisogna stare molto attenti a quello che si dice anche per telefono, perché mi è capitato di sentire cose assurde. Quello che telefonava l'amante, che l'avevano scoperto in banca, doveva scappare in Svizzera, gli diceva cosa portare. Soprattutto via. Se lei si metteva sulla frequenza che sapeva, su cui trasmettevano i telefoni. Era illegale però mettersi sulla frequenza. Esatto, e addirittura sì. Una volta il massimo di un amante che diceva al suo uomo che siccome come si dice, il nastro della sua segnatura telefonica era troppo corto, no, siccome lei gli faceva sentire l'orgasmo direttamente, non era troppo corto per contenere. Grazie, ci fa molto piacere questa sua esperienza professionale. Andrea, però ti rendi conto, alla fine saranno passati 15 anni dall'epoca di questi telefonini intercettati dai radioamatori, uscirono anche dei piccoli libretti, degli Istanbul, la gente andava intorno a Montecitorio e poi pubblicava ancora, c'era una sorta di pionierismo, ma dietro sì c'è questo rovello di farsi fatti degli altri, siamo tutti dei grandi curiosi dell'intimità altrui. Ma è anche qui, no? Il fatto appunto, noi siamo curiosi dei fatti degli altri, però contemporaneamente vogliamo che nessuno metta il naso nei nostri, e questo è un po' il problema, insomma. In realtà se riesco a mettere il mio naso nel fatto degli altri, nelle cose che fanno gli altri, è molto probabile che anche gli altri li mettono nelle mie. Ci sentiamo tra un istante, devo dare la linea alle informazioni del traffico, visto che l'argomento sta appassionando tutti, ha visto che si riconferma quello che era l'assunto iniziale. Ci stracciamo le vesti perché vogliamo difendere il nostro diritto giusto, lecito, alla nostra privatezza di scambiarci tutto ciò che vogliamo, ma appena possiamo appoggiamo il bicchiere vuoto sul muro di casa e cerchiamo di cogliere i sospiri del nostro vicino. Melog 2.0. In questo video vi spiegherò come costruire un telefono spia da collegare successivamente a una cabina che si trovano fuori dalle abitazioni, ai quali sono collegati i telefoni interni della casa stessa. Allora, abbiamo bisogno di un filo telefonico, una spina tripolare telefonica e 4 pinzette. E inoltre uno sparafili, si può utilizzare anche un semplice paio di forbici. Ho 338 00 24 00 24. Ci stiamo facendo le grandi risate, io e Andrea Rossetti, mentre ascoltavamo attentamente le informazioni dal traffico, poi ci rendiamo conto che in realtà esiste una sorta di traccia costante nella storia delle tecnologie della comunicazione. Il centralinista degli anni 50 cosa faceva con i suoi colleghi? Ascoltava le chiacchiere illecite riguardo ai fatti personali e privati dei signori a cui doveva semplicemente dare la linea. Il radioamatore degli anni 80 cosa faceva? Faceva con gli amici compendio e classificazione delle telefonate illecite con le amanti. Oggi qual è il vero rovello, il vero punto dolente, la vera ferita sanguinante sul disegno di legge sulle intercettazioni? È l'aspetto legato alla pruriginosa e illecita attività sessuale delle persone che sono intercettate. È vero così, Andrea? Sembra proprio in realtà di sì, insomma, che il problema riguardi lo scambiarsi appuntamenti illeciti tendenzialmente, di cui gli altri non devono sapere nulla. No, è chiaro che questo è legittimo, però, sia ben chiaro. No, allora, può essere immorale se uno lo considera queste cose immorali, ma sono fatti loro. Sono fatti loro, è assolutamente legittimo. Però esiste, non è un'attività che può essere considerata neutrale o semplicemente legata a necessità investigative o necessità poi di dare una giusta informazione, perché c'è sempre questo aspetto, questa parentesi pelosa in ogni grande evento legato alla politica, all'economia, allo scambio di informazioni vitali del paese, che è quella su cui veramente si articola tutto. La volontà di raccontare quelle cose che non sarebbero raccontabili, perché nessuno dovrebbe fregargli niente, la volontà di non farle sapere, non farle immaginare. Molto peggio avere la telefonata preparati, sto arrivando, oppure quanto era bello quando sei arrivato, ma piuttosto che dire ho portato due valigioni di dobloni all'estero perché così ho fregato il fisco. Stefano da Milano. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo ricordare che negli anni 80, quando era così semplice intercettare i telefonini, Cuore, il giornalino satirico di Serra, le pubblicava e faceva questi estratti di queste conversazioni molto cialtronesche effettuate con questo dispositivo che all'epoca era costosissimo e sembrava raffinatissimo. Sì, erano talmente pochi gli utenti di telefono cellulare che erano invidiati come oggi è invidiato un possessore di yacht, capito? E comunque erano pubblicate in maniera anonima. Se non sì, ricordo, sì, anonima, certo. Anonima. Sì, però c'era l'idea, si cominciava a avere l'idea che questa velocizzazione di strumenti di contatto aveva la possibilità di essere raccontata. Allora era una sorta di romanzo popolare spontaneo, una sorta di cantastorie incontrate, consapevoli, e come tali vengono trattati. Oggi non basterebbe tutta la letteratura immaginata e immaginabile per pubblicare ciò che c'è di romanzesco nelle intercettazioni. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua, eh? Ah, sì, buongiorno. Senta, a me mi è successa una cosa un paio d'anni fa buffa. E sulle mail, nel computer mi arrivarono delle mail dove mi accusava un certo tizio che io avevo degli scambi di messaggi erotici di mail con la moglie. Era vero? No, io non lo conoscevo affatto. Tutto un giorno mi arrivò un mail. Io risposi a queste mail, poi andò avanti due o tre scambi di queste mail con questa persona e all'ultimo poi gli diede il numero del telefono e parlando se ne va a cercare lei, scusi No, io giuro, io proprio. Ma come le viene in mente dare a uno sconosciuto che già la chiama in un motivo così banalmente sciocco? C'è uno controlla il buon senso, perché questa persona era effettivamente molto arrabbiata. Vabbè, ma che anche doveva andare da uno psichiatra, non doveva parlare con lei, non era quello. Ma questo qui effettivamente gli arrivavano delle mail sul ma ognuno c'ha le sue corna, se le tengano, perché deve vessare il mondo. Ma arrivavano col nome mio, con la mia email al computer della moglie. Io non so come successe, sì. Come poteva succedere. Ma effettivamente lui poi mi mandò una copia stampata dove effettivamente poi c'era la sa che prova una copia stampata, se vuole gliela faccio adesso io col mio nome, gliela mando. Ma ho capito, io infatti mi è sempre primazzo. Com'è andata a finire? No, subentrò il buon senso, nel senso che poi io gli spiegai, guardi che io sono sposato tranquillamente. Questa giustificazione, se l'hai sposato non poteva farsi la moglie di questo sconosciuto. C'è ragione, ma eravamo a distanza di 700 km l'uno dall'altro. È perché secondo lei la gente non si scambia amorosi sensi a distanza di 700 km. All'epoca mi è sempre rimasto il dubbio che ci può essere qualcuno che può addirittura inserirsi nei computer altrui. Ma secondo me c'è sufficiente persone che si divertono morbosamente a parlare con altri del potenziale pericolo, rischio per loro lussura, e qualcuno gli faccia fuori la moglie. Andrea. E comunque una delle cose più semplici da fare è cambiare l'indirizzo del mittente, almeno l'apparente indirizzo del mittente di una mail. Insomma, è una cosa veramente semplice da fare, che si può fare con qualunque client di posta. Vorrei sentire un attimo Marco Lombardozzi. Buongiorno Lombardozzi. Buongiorno. Lombardozzi sta facendo una risata, è il titolare della Sintesi, che è un'impresa che si occupa di sicurezza e collabora con varie aziende per bonificare gli ambienti, cioè eliminare dagli uffici, le case, le alcove, gli scannatoi, tutto ciò che potrebbe trasferire all'esterno ciò che accade dentro. Lo fa un po' sorridere lo scambio di mail fra questo signore, vero? Era sicuramente riferito a quello. Senta, però, ecco, sì. Esiste realmente il problema della bonifica ambientale se uno non è un parlamentare, un personaggio noto, un personaggio pubblico? Ma sì, ci sono stati episodi in cui, allora, purtroppo, o per fortuna, non lo so, sicuramente purtroppo, nell'illegalità si trova di tutto. Se questo quindi, abbiamo visto, chiunque può essere spione, esatto. Fai da te. Esatto, quindi dal malato, dal morboso a tutto, cioè si fa di tutto, a parte il politico, a parte diciamo il dirigente d'azienda che può avere segreti e quindi c'è chi ha interesse a carpirli, ma sicuramente ci sono poi ambienti familiari o comunque fra virgolette domestici e privati dove... Ecco, dalla sua esperienza, Marco Lombardozzi, se dovesse tracciare una sorta di classifica di suoi potenziali clienti, chi mette in testa? Gli spaventati dalle corna, le tradimenti, coloro che hanno segreti da nascondere nell'ufficio, personaggi noti, chi sono quelli che si rivolgono più a un bonificatore? Ma sicuramente sono i gelosi, fra virgolette, e sicuramente persone che hanno comunque la paura atavica di essere spiati, ma non si sa da che cosa e peraltro chissà quali segreti da nascondere, però nella loro mentalità c'è sicuramente che qualcuno li sta spiando, li sta controllando e quindi vogliono essere sicuri e certi che ciò non avvenga. Questi sono proprio i primi due in classifica. Allora, Andrea Rossetti, riprenderemo questo interessantissimo argomento che non l'ho qui certo esaurito, però Lombardozzi e la sigla ci sta portando via, ci conferma quello che era il nostro pensiero iniziale. Sì. Ancora una volta... Vogliamo nascondere i nostri appuntamenti amorosi, illegali, illegittimi in qualche quindi maniera. Tutto questo dibattito, la realtà, si riassumerebbe in una sola drammatica e radicale frase che mi asterrò da pronunciare questa mattina. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.